Radio 24. Libera la voglia di fare. Come diceva Vecchio Bosco, partite si possono vincere, perdere e anche pareggiare, ma bisogna vedere come si vincono, perdono o pareggiano. E per me il come è importante. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Torino mi fa pensare la scuola a quegli anni in centro ed un tempo che batte più lento, mi segna i giorni ormai e mi trovo qua. Questa è la mia città, tinte di bianco e nero qua e là, è un granata più vivo, accende la rivalità, ma la città. Paselli al cross, l'area di rigore, di testa va Bellotti, la prende, ancora una volta il Gallo, 11° gol in campionato, il secondo alla Juventus, Bellotti fa 1-0 e fa impazzire l'Olimpico Grande Torino. Mangio qui subito per Higuain, liberati l'area di rigore, Higuain è solo, Higuain! Eccolo qui! A Bellotti risponde Gonzalo Higuain! A 9 risponde il 9, 1-1 in un derby da favola! Tutto può succedere, occhio a Higuain che si gira subito in area su Barreca! Eccolo qui! Eccolo qui! Il fenomeno bianconero! Gonzalo Higuain! Stop e destro, palla in porta! Nel pezzo forte con uscita bassa, poi ancora Dybala per Pjanic, ancora Hart, ancora Pjanic, infila in porta il pallone, il derby è bianconero. Torino e bianconera, è stato un bellissimo derby, alla fine l'ha vinto la Juventus, non so se l'ha perso il Toro Mihajlovic, ma siamo qui fino alle 19 proprio per discuterne. Secondo me il Toro ha pagato un peccato di presunzione, però è anche bello, il calcio è questo, Mihajlovic ha voluto cercare di vincerla fino in fondo, l'ha persa, perché così capita. Oggi c'è stata anche un'altra partita incredibile, quella fra sì. Atalanta Udinese, che è un po' la metafora della vita. Una giornata in bianconero, Giovanni, come ti dicevo prima, ma è come dico adesso pubblicamente, prima guardando la partita... Insomma, hai avuto ragione, il Torino ha giocato molto bene, poi la Juventus a un certo punto l'ha portata su un territorio a lei congeniale e l'ha vinta, nel segno certamente di Higuain che ha fatto dei gol da grandissimo attaccante, però anche di Dybala che si è visto nell'ultima mezz'ora e ha cambiato e ha girato, ti ricordi i dischi di quando eravamo piccoli? Ha messo lì la sua firma, ha messo la sua firma. Il terzo di Pjanic è tutto suo. Allora, io saluto subito Mario Giordano che immagino abbacchiato, direttore, ciao, buon pomeriggio. Io non riesco a vedere la bianconera, la vedo solo nera questa domenica. Solo nera. Abbiamo anche Allegri che sta per arrivare a parlare ai microfoni di Premium, quindi poi lo diamo in diretta le prime battute, 800 24 00 24. Io la domanda la faccio così, brutale. Ha peccato di presunzione Mihajlovic a un quarto d'ora alla fine a giocarsela con quattro attaccanti sull'1-1? Io penso di no, io ho amato quella mossa, perché la mossa del Torino in quel momento in cui stava giocando fra l'altro bene era di andare a cercare di vincere. Fra l'altro il gol preso sull'azione subito dopo non dipende dai cambi, dipende tutto più da un errore della difesa che oggi soprattutto Castan non ha giocato bene. Deve esserci Castan, non Barreca, su quei. Quindi non credo che quel gol sia l'errore fondamentale. Io devo dire che invece ho apprezzato molto la decisione. Certo, poi la Juve fa entrare Dybala e Lemina, noi facciamo entrare con tutto rispetto Martinez e Bourget. La differenza poi si cambia, perché avete detto voi Dybala quando è entrato in campo, poi dopo noi non siamo più riusciti a giocare. Se non è una cosa che rimprovero, l'unica cosa che mi sento di rimproverare oggi alla squadra, oltre alla prestazione, come dicevo, di alcuni singoli come Castan, è il fatto di non aver reagito dopo quel secondo gol che abbiamo preso nel momento in cui stavamo giocando meglio. Ma proprio per quello, direttore, proprio per quello. E però a quel punto lì, se non l'avesse fatta prima, non avrebbe dovuto fare a quel punto lì, perché se prende il gol è rimasta bruciata. Però io sono d'accordo con te quando dici che non è presunzione, ma la classifica che il Torino si è costruito ha consentito a Mihajlovic di di provare a vincere il derby, di fare in modo di vincere questo derby, perché non è nulla di drammatico dal punto di vista della classifica. Capisco che per chi ha il cuore granata se lo sente sanguinare, insomma. Sì, perché appunto è un derby che comunque il Torino ha giocato per buona parte alla pari, ha vinto alta, sì, testa, certo, alta, certo. E questo secondo me, e ripeto, Mihajlovic lo fa tutte le partite, quella quando non riesce a giocare l'ha fatto a Crotone, lo fa sempre. Però non tutti gli avversari sono la Juve, cioè non tutti hanno Higuain, non tutti hanno Dybala. È vero, però è vero anche che il Torino che si rinchiude indietro perde la caratteristica del Torino e non è in grado di giocare in quel modo lì. E quindi le scelte rinunciatarie, ripeto, io non mi sento di imputargliele. È ovvio, è andata male, sarebbe facile dire, però io non mi sento di imputargliele, perché in quel momento lì non glielo imputate, devo dire, da tifoso granata, e penso che molti tifosi granata, se si farà vivo qualcuno che la pensa in modo contrario, ma io, il mio spirito, nel momento in cui l'ha fatta, ho detto bravo. E per cui non mi sento adesso perché poi è andata male. Poi ha girato storta. Sì, è apprezzabile. Tanto era in cima a una partita, l'abbiamo detto, bellissima, vibrante, che il Toro ha giocato da Toro, ma ieri Mihajlovic ce l'aveva fatto capire. Fatemi salutare Mario Adinolfi. Eccolo, ciao, buonasera. Che immagino di umore diametralmente opposto rispetto a quello di Mario Giordano. Ma era abbastanza tranquillo all'inizio della partita e contento alla fine. No, non ci stai a dire che, era tutto scontato. Voglio vedere come eri tranquillo quando ha segnato Belotti. Guarda, c'ho le chat, ho detto serviva il gol, benissimo, gliene facciamo tre. Ah, quindi la teoria è che serviva il gol per svegliarsi. Per dare quella scossetta e anche rendere tutto un po' più divertente, insomma. Però dopo, no, cominciavamo 3-0, era brutto. Cioè così i ragazzi si sono dati subito una mossa, quando poi però hai il dislivello tecnico, mi pare oggettivo. Cioè non si può neanche discutere, la Juve è di un altro pianeta rispetto al Torino. Sì, sarà anche di un altro pianeta, anche però se il 3-1 è il risultato che secondo me entra quel tiro a giro di Ljajic, due minuti prima del 2-1 di Higuain, stiamo qui a raccontare un'altra partita. Certo. Sì, però i dati oggettivi sono che la Juve è di un altro pianeta. Cioè, se tu hai la squadra più forte d'Italia, la seconda diventa Higuain, la terza diventa Pjanic, c'è poco da discutere, vinci in eterno. Poi il Toro ci mette il caro vecchio cuore granata, ma dal punto di vista tecnico penso non ci sia veramente discussione. Si è visto oggi in un ambiente in cui c'era tutto appunto il grande cuore granata, lo stadio del loro, Mihajlovic si è inventato il triplo cambio, insomma le classiche operazioni che vogliono costruire leggenda, che poi dopo si scontrano con i dati di fatto. I dati di fatto dicono che tra la Juve e il Toro c'è una categoria differente, oggettivamente. Cioè non sì, però oggettivamente per 70 minuti si è vista una partita con un grande Toro. Vi chiedo un secondo di pazienza a tutti e due, perché sta iniziando a parlare Massimiliano Allegri, microfoni di Premium Sport, lo sentiamo, poi scrivono da New York per dire quante parate ha fatto Buffon, altro che Toro all'attacco, ma abbiamo Mario Giordano per rispondere, sentiamo Allegri, microfoni di Premium. Ragazzi, hanno fatto una buona partita già al primo quarto d'ora del primo tempo, abbiamo avuto diverse occasioni per segnare, poi siamo andati in svantaggio nel primo cross, ha fatto un gran gol Belotti, tra l'altro era marcato dall'Steiner molto bene, ma è stato molto bravo lui. Poi abbiamo pareggiato e dopo abbiamo avuto altre situazioni favorevoli. Abbiamo preso un po' di contropiedi il secondo tempo e abbiamo sbagliato molto, secondo me, tecnicamente negli ultimi 20 metri, dove oltre alle occasioni che avevamo creato abbiamo sbagliato proprio l'ultimo passaggio che potevano diventare sicuramente occasioni pericolose. È stata fatta una bella partita, giocata anche discretamente bene. Sapevamo che dovevamo fare una partita del genere, anche di combattimento, perché Torino è un'ottima squadra che sta facendo un grande campionato e poi è sempre un derby. Allora, questo è Massimiliano Allegri a caldo, 800 24 00 24. Io lo dico, non mi trovo per niente d'accordo con la lettura di Mario Adinolfi. Abbiamo il traffico, torniamo subito dopo. Traffico. Tutti convocati. Benvenuto, questo è Mikasa. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Tutti convocati. tutti convocati, sia quelli che dicono, come scrive qualche amico, che era scontato che la Juve battesse Granata, che la Juve ha fatto valere i due nuovi acquisti, 120 milioni tra Higuain e Pjanic, o anche quelli che dicono che scontato non c'era nulla. E anzi, io penso che abbia ragione Allegri, l'abbiamo sentito, cioè quando dice, insomma, è stata una partita in cui abbiamo messo qua e là troppi errori. Mario Giordano? Sì, Mario Dinolfi, che è molto simpatico e che saluto, sì. Ma non quando fa lo juventino con prosopopea, perché questo è veramente un atteggiamento inaccettabile. Sì, c'è un po' di senso di superiorità in quel modo di leggere di questa partita. Sì, che è tipico. Però, ripeto, lo stesso Allegri l'ha detto, no? Abbiamo subito un po' di contropiedi. È vero, come diceva col vostro collettore, che forse non tiri parate Buffon non ne fate, però è anche vero che pochi minuti prima del gol Baselli, eravamo un 3 contro 2 in contropiede, Baselli ha dato via la palla, che era un'occasione chiara del gol. Ricordo il tiro di Benassi respinto da Mandzukic, che oggi sembrava essere 10 persone diverse, che stava in tutte le parti del campo. Sì, è un giocatore da Toro, Mandzukic. Sì, Mandzukic veramente ha messo una... Lo piglieresti, sì, al Toro, storia, subito. Anche se mi tengo tutta la vita quel gigantesco, enorme cuore granata di Belotti, che è veramente strepitoso. Se contasse solo il tasso tecnico, l'Italia non avrebbe vinto la differenza, non avrebbe vinto i due ultimi campionati del mondo, ce lo diciamo sempre, no? Quindi in questa partita è evidente che la Juve, che l'ho detto prima io, si fa entrare Dybala e Lemina, e noi facciamo entrare Martinez e Boyek, e poi schiera Higuain, che sappiamo tutti ora, è chiaro che ha un tasso tecnico superiore. Ma sul campo, ripeto, fino al momento del gol del 2-1, la partita era aperta, poteva finire tranquillamente 3-1 per il Torino. Sì, ma proprio per questo, come c'è un peccato di presunzione di Mihajlovic. Ma no, peccato, cioè, se di sei presunzione così inferiore, che ci sta, Giovanni, peccato di presunzione che ci sta, perché ti ripeto, il Torino si è costruito una classifica tale per cui puoi provare a creare qualcosa di memorabile per i tuoi tifosi vincendo questo derby. Sì, ma posso aggiungerci una cosa? Cioè, Mihajlovic sta cercando di creare anche una mentalità. Esatto. Da Toro, una mentalità diversa. Questi cambi rientrano anche nel lavoro di costruzione di questa mentalità, e quindi ci sta anche. È per questo che io non mi sento di condannare. No, Adinolfi, ma... aspetta, tanto ha scritto un amico 349-238-6666. Siamo sempre alle solite. Il senso di superiorità degli juventini fatalmente scompare ogni anno in Europa. Vai, vediamo, quest'anno. Aspetta, fatemi parlare con Mario Adinolfi. Però Mario, dai, non dirmi che fino al 75esimo, al raddoppio di Higuain, la Juventus abbia stradominato il campo. In Europa l'unica squadra che domina il campionato e ha dominato anche il girone si chiama Juventus, questo lo comunico all'amico. Non lo so, ma per carità, è stata una bella partita combattuta. Quello che io contesto è l'idea che Mihajlovic ci ha voluto esprimere di poterla giocare alla pari e vincerla, cioè il famoso triplo cambio, aveva questa come ambizione, ed era un'ambizione oggettivamente irrealizzabile, era un atto di presunzione, cioè non ti metti a giocare. Secondo me sull'1-1, se fanno una bella catenacciata per l'ultima mezz'ora, forse portano a casa, ne perdono di una solo di scarto, riescono a datare il momento del gol della Juve. Che questa partita fosse scritta con un dislivello evidentissimo dal punto di vista del tasso tecnico, leggendoci giocatore per giocatore, molto semplice. Poi non mi dite che Allegri è andato lì, certo, poteva andare a dire, in effetti noi siamo di un'altra categoria, abbiamo vinto la partita e dovevamo vincere, ovviamente deve dare dichiarazioni diverse, ma se uno legge il dato tecnico di questa partita fosse il dato tecnico in quelle due squadre erano alla pari, io lo contesto, e contesto per questo la scelta di Mihajlovic di provare a fare qualcosa che in quel momento ha completamente stravolto un piano dove probabilmente sarebbe andato a fine in una certa maniera. Però per 70 minuti alla pari hanno giocato, dai. Prima di intanto saluto Mario Giordano, che ringrazio. Sì, no, durano 90. Si leccherà. Saluto anche Aldo Serena, che ha appena finito di commentare per Premium proprio il derby di Torino. Ciao Aldo. Ciao Aldo. Ciao a tutti voi, ciao. Prima però di salutare Mario Adinolfi, lo voglio lasciare perché oggi è stato un momento di dramma per gli juventini. Cioè c'è stato uno scontro fra Lichtsteiner e Castan dentro l'area di rigore molto simile al famoso Ronaldo Giuliano. Eravamo sull'1-1, la Juve ha chiesto rigore. Per gli juventini si è aperto un dilemma. Era rigore, quindi era rigore anche quello del 98. o non era rigore, dai, e allora non era rigore. Non no, fatemi rispondere a Mario Dinolfi, perché se no non la finiamo sul web sono impazziti. No, Mario, non la finiamo più. Non era rigore il 98, non era rigore oggi. Quindi non era rigore, ha visto bene Rocchi. L'Inter no. No, no, è che hanno protestato tutti oggi in quel momento. Ricordo che nel 46-47 c'è stato un altro episodio simile, nel 45-46, non ricordo bene. Sì, va bene, dai. In piedi davanti a questa Juve che è stratosferica, ragazzi. Questa Juve che ricorderemo, la Juve stratosferica. Sì, ogni tanto qualche partita la perde anche questa Juve, e oggi secondo me a un certo punto, anche se poi è finita diversamente, qualche timore, qualche tremore c'è stato. Grazie a Mario Dinolfi. In Europa una grandissima squadra. Ciao. Ciao. Ciao Mario, grazie. 800-24-0024, Aldo Serena, ciao. Ciao, ciao a tutti. Allora, la domanda è, l'ha vinta più la Juve o l'ha persa più Mihajlovic, con un peccatiello di presunzione alla fine, buttando dentro tutti gli attaccanti, pensando di poterla vincere? Mihajlovic io credo abbia creato un'atmosfera che ha permesso al Toro di giocare quasi alla pari con Juventus per quasi tutta la partita, perché l'atmosfera che si respirava allo stadio era di coesione da parte del pubblico granata, dei giocatori, e lì secondo me con quella conferenza stampa di ieri ha legato le cose e ha creato i presupposti di giocarsi alla pari questo derby, e lo ha fatto per gran parte. I tre cambi in contemporanea e subito dopo 30 secondi la rete, ecco, per la dinamica dell'azione forse possono anche dare adito a una presunzione di Mihajlovic, però ecco, sono stati anche degli errori individuali, perché se Barreca è più attento, più scaltro, non fa sentire il corpo ai Wayne, insomma, ha un mostro dell'esperienza come l'argentino, può essere che lo neutralizzi, e da lì forse poi parleremo di un'altra cosa. Ma ti è piaciuta la Juve? Al di là di Higuaín, del mostruoso impatto che ha avuto su questa partita? Beh, è stata una Juventus con qualche errore, non sempre era quadrata sotto il profilo difensivo. Alessandro ha fatto benissimo la fase offensiva, però ecco, nei ripiegamenti difensivi non è stato perfetto e celere. In effetti sul gol di Belotti lui mancava da quella parte, e poi Chiellini e Sturaro non sono riusciti a scambiarsi poi le marcature con Zappacosta e Baselli, e hanno creato i presupposti del cross dal fondo agli avversari. Per cui Alessandro spesso nella fase difensiva non è stato perfetto, ma ha dato un gran contributo alla fase offensiva. È una squadra questa che però ha variabili notevoli, come è uscito Mandzukic, è entrato Dybala, è uscito Quadrado, è entrato Pjanic, insomma parliamo di altissima qualità. Sì, parliamo anche di una, a parte il fatto che Quadrado a me è piaciuto moltissimo, forse quello che mi è piaciuto di più nella Juventus in tutte e due le fasi. Di Mandzukic, guarda, Mandzukic ha giocato una grande partita. Abnegazione. Sì, mi è sembrato una Juventus in crescita dal punto di vista fisico, ma così ad impressione televisiva, e comunque una Juventus che ha un giocatore che si chiama Pablo Dybala, cioè sul terzo gol, voglio dire, io sono rimasto abbagliato per quello che ha fatto. Ha saltato due uomini in un fazzoletto e poi ha avuto la freddezza comunque di cercare Pjanic, invece di concludere, di cercare Pjanic in mezzo all'area. Primo tiro ribattuto, secondo gol. Esatto, e quindi qui proprio si è superato, perché erano tre giocatori che cercavano di imbrigliarlo sulla fascia laterale, lui è sfuggito proprio ondeggiando in maniera elegante, anche oltre che efficace, poi palla dentro verso Higuaín e poi sul rimpallo. Dybala veramente mi sembra recuperato a pieno titolo, insomma, per la titolarità delle prossime partite. Sì, comunque tutti quelli che criticano Higuaín, io vi do due numeri: oggi ha fatto l'ottavo e il nono gol in campionato, fin qui sapete quanti punti è valso alla Juve? So che questi giochini non piacciono, però alle volte i numeri dicono tanto, sono 8 punti, ma giusto perché alla fine Pjanic ha fatto il terzo gol oggi, altrimenti sarebbero stati 9. Sì, ma come si, la domanda è come fai a criticare Higuaín? No, beh, ci sono tanti, no, Aldo, che considerano fin qui la stagione di Higuaín non straordinaria. Esatto, ecco, devo dire che nei primi 20 minuti, ecco, fino al gol, Higuaín aveva toccato pochissime volte il pallone, era dato molto più da fare Mandzukic, era stato anche più bravo nei movimenti in area di rigore, aveva rischiato di far gol due volte Mandzukic, una volta aveva calciato bene col sinistro, l'altra di testa non molto bene per la verità, ma Higuaín è un giocatore che pur fa parte della categoria dei grandissimi bomber, quelli che possono rimanere fermi per 20 minuti, ma la lucidità, la destrezza, la ferocia nell'andare a far gol alla prima occasione l'hanno sempre, e lui lì ha sfruttato quell'indecisione di Ljajic sul controllo, e sono stati bravi i giocatori della Juventus a regalargli un assist che poi lui ha concretizzato nel gol. Roma, Lazio, Milan, Napoli, chi è l'anti-Juve? Beh, domani sera si vedrà fra Roma e Milan chi ha più tempra. Io credo che la Roma sia più attrezzata per essere l'anti-Juventus, anche se il Napoli sta rinvenendo molto bene, nonostante il problema della punta centrale. Oggi sì. Mertens ha fatto 3 gol, per cui penso che Napoli e Roma si contenderanno. Io questo. Dicevo prima, Giovanni, che la classifica si va un po' normalizzando, no? Complice la sconfitta dell'Atalanta, che non ti potevi aspettare con l'Udinese, però... Questa sera leggi la classifica anche in controluce, se vuoi, aspettando Roma-Milan di domani sera, e la classifica sì, si va un po' normalizzando. Juve, Roma, Milan, Napoli, Lazio, queste sì. Sono le prime 5. Insomma, sono i valori che come sempre capita, a dicembre vengono fuori. Grazie Aldo. Ciao Aldone. Grazie a voi, ciao. Buona serata. Grazie Aldo Serena, 800-24-0024, stiamo aspettando Mihajlovic, facciamo il volo Gianluca da Napoli. Gianluca. Buonasera, complimenti a tutti. No, volevo, visto il derby di Torino... È una, diciamo così, qualche teoria che faccio da una vita sulla Juventus, il fatto che si è sempre portato avanti la leggenda che la Juve è avvantaggiata dagli arbitri. Sì. Oggi è successo come sempre, che la Juve ha vinto la partita e è andata tutta in cavalleria. Per 18 anni hanno lamentato il rigore di Ronaldo, oggi c'è stato un rigore simile a quello di Ronaldo. Ma infatti secondo me era calcio di rigore quello di oggi. Era pure ammonizione per Castan, che era già morito, doveva essere espulso. Vabbè, adesso non esageriamo. Era ammonizione, perché era già morita da stanza. Vabbè, comunque era calcio, secondo me era calcio di rigore e fucilazione. Ma ripeto, no, la cosa strana dell'azione di oggi, che la raccontiamo, è accaduta a un metro dall'arbitro di porta, che era Banti, che insomma è stata valutata da 3 arbitri nell'arco dello spazio davvero di pochissimi metri. Secondo me era calcio di rigore, ma credo che sia uno di quegli episodi su cui poi si può e si discuterà un po' meno, perché poi la Juve ha vinto, però effettivamente che dividono. Grazie Gianluca. Allora, rapidamente in pausa, aspettiamo Mihajlovic, parliamo anche del Napoli, perché poi vi do un altro dato statistico invece che riguarda l'attacco del Napoli. 800-24-0024, torniamo subito. Tutti convocati. I love this game. Convocati. La partita era difficile perché nelle partite di Champions c'è un grande dispendio di energie mentali e nervose, e dopo è difficile arrivare pronti alla partita successiva quando torni alla normalità del campionato. Era difficile per l'orario, che questo è un orario augurabile a chi vuoi male per giocare a calcio, e quindi oggi abbiamo risposto nella maniera giusta. Allora, questo Sarri dopo i 5 gol del Napoli a Cagliari, 800-24-0024, adesso arriva anche Mihajlovic, saluto subito Pierpaolo Marino, ciao direttore. Buonasera, ciao. Ciao direttore. Allora, io vi do 2 numeri, con i 5 gol di oggi, alla 16ª giornata, questo Napoli ha segnato 3 gol più di quello dell'anno scorso con Higuain, e lo ha fatto distribuendo in maniera meravigliosa. L'anno scorso 14 Higuain, 7 Insigne, 1 Mertens Gabbiadini, 0 Calleon. Quest'anno 7 Calleon, 6 Mertens, 4 Milik prima dell'infortunio, 4 Insigne, 1 Gabbiadini. Ci metto anche Hamsik, che ha praticamente già fatto tutti i gol dell'anno scorso. Sì, beh, dai, è un po' fuorviante però, ditemi che questo Napoli non ha delle potenzialità immense. Direi da scudetto, ma non lo dico per non bestemmiare. Ma nessuno lo dice che questo Napoli non ha delle potenzialità immense, solo che mi sembra una statistica un po' fuorviante. Direttore? No, diciamo che l'analisi come aritmetica è giusta, però poi ci sono le singole partite che danno risultati diversi, perché in realtà la mancanza in organico di un bomber è comunque una carenza che tu lasci come vantaggio agli avversari, perché abbiamo visto oggi che per esempio la Juventus in una partita non esaltante da parte sua, anche se giocata con determinazione, è stata aiutata da un Higuain che ha risolto la gara, ha risolto il derby. E quindi è chiaro che il Cagliari comunque, il Napoli ha giocato benissimo, perché quando il Napoli approccia le partite nella maniera giusta, Mertens diventa Higuain, Calleon diventa Higuain, esatto. Sì, Beh, però siamo alla terza di fila, siamo alla terza di fila ad alto livello. È un momento, è un momento di autostima positivo del Napoli, che viene dalla svolta, secondo me, impressa nella partita con l'Inter, con il 3-0, e poi proseguita al Daluz. E oggi si è visto, però non dimentichiamo che il Cagliari comunque credo sia la peggiore difesa del campionato. 37 quindi... gol presi, uno ogni 37 minuti. E in casa anche la Fiorentina. Se volete qualche altro numero ve lo do. La squadra che tutti vorrebbero affrontare, a cominciare da Higuain per finire con Mertens. Sì, io devo dire, vi stavo seguendo, per carità, è vero, sarebbe anche banale, oltre che sbagliato, sostenere il contrario, cioè il centravanti serve in tante partite, basti pensare al pareggio del Napoli ad esempio in casa contro il Sassuolo, però io ho l'impressione che il Napoli oggi sia così lontano dalla Juve, 8 punti, perché ha avuto un contraccolpo soprattutto psicologico dopo l'infortunio di Milik, cioè quelle prime settimane, lo dicono anche i numeri, 10 punti nelle 7 partite successive, hanno scavato quel solco lì, ma questo Napoli potrebbe essere l'anti-Juve anche così. No, io do una lettura diversa, ci ha messo un po' per capire, senza cambiare il quadro tattico, per capire come giocare. E poi, permettimi, io vedo un Napoli che è cresciuto molto dal punto di vista fisico. Direttore? No, condivido pienamente, assolutamente. Però, ripeto, il Napoli ha un problema, che approccia male con le squadre piccole. Oggi per fortuna no, perché i suoi punti di distacco risalgono al pareggio di Pescara, al pareggio col Sassuolo, alla sconfitta di Bergamo, e lì sì, sicuramente il contraccolpo psicologico dell'assenza di Milik, però alla prima di campionato a Pescara non dimentichiamo il bruttissimo primo tempo che ha giocato il Napoli. La Juve questi errori di valutazione dell'avversario non li fa, ha sempre gli occhi della tigre, anche quando magari non è in condizione fisica ottimale. Poi va riconosciuto a Sarri, che secondo me è il vero valore aggiunto del Napoli, che è riuscito a dare un gioco collettivo arioso, sfrutta le fasce in maniera straordinaria, e per cui il Napoli diventa anche una macchina da gol quando è pienamente in partita, e quando questo è, diciamo che è un po' un limite di una squadra che non ha ancora la mentalità vincente, perché fa fatica a vincere le partite sporche. Esatto. Sì. Senti, secondo te dei 90 milioni che la Juve ha pagato Higuain, quanti ne ha restituiti oggi con quel controllo su lancio da 46 metri? Non lo dico perché sto rivedendo il gol del 2-1 di Higuain. No, io sto rivedendo quanto invece vale, il gol quanto del vale quello? Quanto vale quello, direttore? Una trentina vale. Una trentina di milioni li ha restituiti oggi. E allora, con Belotti che ha la clausola rescissoria per l'estero da 100, io stavo riguardando invece adesso con Giovanni quello che ha fatto Dybala in occasione del terzo gol. Va bene, mi dite il terzo. Però si è fumato due uomini nello spazio di un francobollo, ha dato la palla dentro e sulla ribattuta ha avuto la freddezza non di tirare ma di cercare Pjanic. Secondo me ha fatto una cosa pazzesca Dybala. A quanto fissiamo la clausola rescissoria? 150? Io la metterei a 1 miliardo, perché per me le clausole rescissorie per un giocatore così sono sempre pericolose. Quindi farei come fanno gli spagnoli, che per eludere la clausola voluta dal re in favore dei giocatori li mettono stratosferiche. Sì. Cioè non anche se Messi ce l'ha da 250, cioè, che insomma 250. È tanto, ma magari un pensierino, uno sceicco, sì, uno sceicco che ce la però, può fare. Che però poi magari non lo soddisfa da un punto di vista di contesto dove va a giocare. Certo. Mi dici secondo te chi è l'anti-Juve? Sbilanciamoci prima di Roma-Milan. Dai, Roma-Milan, Lazio o Napoli? Io ci metto dentro anche il Napoli, anche se la classifica ovviamente dice che il Napoli è lontanissimo in questo momento. No, secondo me può essere il Napoli, soprattutto se compra una punta a gennaio, perché non vorrei che illudesse De Laurentiis la sua cassaforte di famiglia, il problema che magari hanno fatto 5 gol oggi, perché le aveva fatte anche la Fiorentina a Cagliari 5 come gol, una, ma hai sempre detto che devi comprarne due tu, Pierpaolo. No, però un momento, ho detto sempre due se vendono Gabbiadini. Sì. che mi pare a questo punto abbastanza sodato. Però sai, nel calcio tutto è in evoluzione, perché ultimamente Gabbiadini l'ho visto più partecipe delle vicende del Napoli. Però se vendesse Gabbiadini dovrebbero essere due. È chiaro che la seconda punta da comprare potrebbe essere anche un giocatore di prospettiva, uno da utilizzare proprio in casi estremi, anche perché Mertens, come finto nuove, anche oggi dimostra qualità importanti. Una o due a seconda di Gabbiadini. Va bene, grazie direttore. Ciao direttore. Buonasera, ciao. Volevo chiedergli secondo lui a quanto alla gira il Napoli alla fine del giorno d'andata, ma non riferisco. Rino dalla provincia di Arezzo. Rino. Sì, buonasera. Eccoci. Mi sento tanto parlare di anti-Juve. Sì. A me sembra una presa in giro, perché se la Juve non vince con almeno 15-20 punti di vantaggio è ridicola la cosa. Sai che secondo me invece non è una presa in giro, perché ripeto, oggi al 70esimo la Juve, che aveva già perso 3 partite complicate per vari motivi in trasferta, secondo me era più vicina a rischiare di perderla che di vincerla questa partita. Poi dopo il 3-1, per carità. No, prego, invece, Rino, prego. Non sono d'accordo con Giovanni, nel senso che anche secondo me l'anti-Juve non esiste. Poi 15-20 punti mi sembrano eccessivi. Poi, però, se vogliamo giocare, giochiamo, cioè a Roma e Napoli. Rino, dai. Higuain ha segnato, era marcato dal ragazzo della primavera, quindi già questo è indicativo, secondo me. Cioè, il riserva lascia poco spazio. Sì, però ha fatto un gran gol Higuain. Adesso Barreca è stato un attimino leggero, e si è fatto anticipare sul controllo. Poi Higuain è straordinario in quelle occasioni lì. Grazie Rino. Mihailovic non è ancora passato i microfoni di Premium. Noi aspettiamo. Siamo un po' preoccupati. Col traffico. Tutti convocati. Vado a giocare. Ci vediamo dopo. Convocati. Abbiamo sfruttato, diciamo, quel tiro di Ljajic che è uscito da poco, un gol salvato sulla riga da quel dopo tiro di Benassi, ripartenza quella là di Baselli che ha dato palla corta. Diciamo che Juve è la squadra che è stata costruita per vincere Champions, per vincere il campionato, noi per lottare per Europa League, ma sinceramente oggi, per quanto riguarda il livello di prestazione, non ho visto questa differenza. Devo dire che oggi sono orgoglioso dei miei ragazzi, perché comunque hanno dato tutto, hanno giocato da toro, cercando sempre di vincere. Poi naturalmente quando giochi con queste squadre, quando non sfrutti le occasioni, ogni minima disattenzione ti fanno gol, come il secondo gol di Higuain. Primo è un po' fortunoso, perché ho visto che anche tacco di Mangio, che c'è stato involontario perché guardava la palla, ha liberato il secondo. Ci sta, perché Barreca è un ragazzino di 18 anni, si trova Higuain, è normale che poi magari mancando esperienza e tutto si può fregare in quella maniera là, però ha fatto una grande partita come tutta la squadra. A Giovanni bisogna lasciargli anche tempo di sbagliare. E non si vede spesso Giovanni, la è Barrega, questo è Mihailovic. Perfetto, no? Sì, perfetto. Poi perfetto. Magari adesso proverà a spiegare anche quel cambio nel finale, che, ripeto, secondo me è un po' un peccato di presunzione, perché, per carità, va bene la mentalità, va bene una partita giocata meravigliosamente per 70 minuti, però davanti alla Juve pensare di chiuderla con 4 punte sul pareggio, magari si può anche fare qualcosa di diverso. Xavier Iacobelli, ciao direttore. Ciao. Buongiorno a voi e buon pomeriggio agli amici ascoltatori del Corriere dello Sport. Io non so se come la pensi tu. Io la penso diversamente da te, se me lo permetti, perché credo che debba essere applaudito il coraggio di Mihailovic. C'è vero, hai ragione tu, quando ricordi come per i primi 70 minuti il Toro avesse disputato la partita perfetta, o comunque ci fosse andato vicino. Ha rischiato perché voleva vincere questo derby Mihailovic. E ha fatto bene, secondo me. Anch'io non sono in disaccordo con il mio compagno, illustre compagno di banco. Cioè, la classifica ti consente di fare un sogno, no? di fare un sogno in una partita giocata in maniera magnifica contro un'eccellente Juventus, però ti consente anche di andare a rischiare qualcosa come Mihajlovic ha fatto. Secondo me ha fatto benissimo. Poi, dopodiché, succede, il calcio è questo, e ha ragione Mihajlovic quando sottolinea come se tu hai in squadra un fuoriclasse, un marziano del calibro di Higuaín, questi possa decidere la partita come l'ha decisa. E fra l'altro, ripensando ad alcune critiche che nelle scorse settimane erano state mosse all'ex napoletano per via della sua difficoltà o presunta tale ad inserirsi nei meccanismi del gioco bianconero, adesso viene da sorridere. Questo sì. È un giocatore che negli ultimi 8 anni è sempre andato in doppia cifra solo in campionato, sì. Computando i gol anche se vederlo non tirare in porta per qualche partita, qualche riflessione secondo me legittimamente sì. La fa fare, ma credo che Allegri non è, insomma, Allegri lo sa per primo che con o senza Dybala ad esempio sono due Higuaín diversi. Sì, ma quando cambi squadra, anche si chiama Higuaín, quando questa squadra viene largamente rinnovata in estate, quando questa squadra all'inizio della stagione non ha un elemento indispensabile, perché è vero che se tutti sono necessari nessuno è indispensabile, Claudio Marchisio è l'eccezione alla regola, era normale, era naturale, era logico che almeno inizialmente la manovra offensiva della Juventus per quanto riguardasse Higuaín potesse stentare. Però se noi guardiamo la classifica e ci rendiamo conto della prova di forza che oggi i campioni d'Italia hanno dato contro un gran bel toro, veramente un toro molto più forte di quello che negli ultimi anni si era parato davanti alla Juventus, è vero che ne aveva vinto soltanto uno di derby nell'arco di 20 anni da questa parte. E quindi questo suona ancora come ulteriore merito. Sì, possiamo, poi mi sto zitto, però possiamo sottolineare anche il fatto che Higuaín, cioè la bravura di Higuaín è stata anche quella di mettersi al servizio di Mandzukic, cioè un altro centravanti molto simile a lui come caratteristiche. Quindi grande umiltà di Higuaín nell'adattarsi a un momento di difficoltà lungo in cui è mancato Dybala. Su questo sono d'accordo e credo anche che tu abbia fatto bene a citare Mandzukic, perché in questo periodo di transizione, se così vogliamo definirlo, da una Juventus all'altra, perché questa non è una squadra uguale a quella che avevamo visto giocare nella passata stagione e non sarà uguale a quella che vedremo giocare all'inizio del 2017, perché per esempio quello scampolo di partita in Champions League contro la Dinamo Zagabria che ci ha mostrato una Juventus a 3 punte, secondo me è stato più che un abbozzo di esperimento, è stato un segnale che Allegri ha lanciato forte della possibilità di cambiare modulo con gli attori che la società gli ha messo a disposizione. Quindi io credo che in questo momento Higuaín si stia godendo questa fine d'anno, anche perché si è inserito nei meccanismi della Juventus al momento giusto, perché chi meglio di Higuaín alla vigilia era ipotizzato o ipotizzabile come risolutore del derby e tale lo è stato. Certo. I grandi campioni di solito non falliscono queste occasioni. Certo. So che il direttore è sempre molto attento alle vicende dell'Atalanta. Allora io racconto la partita Atalanta-Udinese così. Primo tempo con il 73% di possesso palla dell'Atalanta, traversa, salvataggi sulla linea, Carnezes migliore in campo per distacco, un tiro in porta al 45esimo di Zapata, gol dell'Udinese. Secondo tempo pareggio immediato dell'Atalanta, più o meno lo stesso copione, ha vinto l'Udinese per 3-1. Ora io credo sia la metafora della vita, meraviglioso, il calcio è uno sport straordinario, no, della vita, tu fai poi arriva qualcuno, ne ha sempre una in più di te e ti inchiappetti. Cos'è finita la favola dell'Atalanta? No, dobbiamo rassegnarci a un ridimensionamento? No, dai, assolutamente no, perché tu hai fotografato con precisione cronistica e cronachistica l'andamento della partita. Io devo dirti che raramente ho visto una squadra schiacciare, forse il secondo tempo contro la Roma, questo ha richiamato alla memoria il primo dell'Atalanta contro l'Udinese, per qualità del gioco, per condizione atletica, per pressione a tratti soverchiante, ma merito all'Udinese per aver resistito a questa pressione. Al tempo stesso credo che questa sia una sconfitta che debba essere catalogata come incidente. La qualità del gioco, l'alta qualità del gioco della squadra di Gasperini è la migliore ipoteca sul futuro. Certamente. È normale, è naturale che i giovani di Gasperini possano accusare anche questi peccati di inesperienza. Sportiello non ha fatto una partita che non l'ha mai visto impegnato seriamente, eppure l'Udinese ha vinto. Il calcio questa essere crudele, l'Udinese merita un grande applauso per il modo con cui ha resistito. Neri zitto la sta portando a metà classifica. Ma, sì, è esattamente l'obiettivo che si riproponeva quando ne ha assunto la guida, ma io credo che qualunque tifoso atalantino, anche il più ottimista in estate, non potesse mai preconizzare un Atalanta sesta in classifica, 28 punti dopo 16 partite con 19 punti sulla persona. Il difficile sarà adesso riannodare i fili, perché dopo una sconfitta immeritata come questa, con tanti giovani in squadra... Che è la seconda consecutiva, tra l'altro, perché c'è anche quella di Torino. Sì, c'è il rischio magari che cali un po' l'entusiasmo, e tu quando hai una squadra di giovani, se cala l'entusiasmo, il rischio è magari che cali anche un po' il rendimento, anche se questa Atalanta ha dei ragazzi veramente fenomenali. Grazie direttore. Ciao direttore. Grazie a voi. Ciao. Buona serata. Grazie a Xavier Iacobelli. Poi chissà se a gennaio Kessi resta oppure va a Torino. Perdonami, sì. Perdonami, ma qualcuno dice ancora che il Napoli ha fatto un affare a cedere Higuain, ma non diciamolo neppure per scherzo. Non diciamo numeri, panzane però, che sì. Aborro, una tesi criminale, no, grottesca. Ma si può anche discutere pazzesca. Tranquillamente. Dai, si può anche discutere tranquillamente. Dai. Abbiamo un paio di minuti prima del GR. C'è Andrea dalla provincia di Parma. Andrea. Ciao, buongiorno. Eccoci. Complimenti per la trasmissione, a parte il finto Mughini, vabbè. Sì. Perché a parte il finto Mughini? Io ti aborro. Io però sono dopo come te, Mughini, non te la prendere con me. Allora, ma poi chi ti ha detto che è finto? È vero, In riccioli e occhiali rossi. Chiedo scusa, allora. No, volevo dire questo. Prima avete accennato al fatto che forse Mihajlovic, mettendo le quattro punte, come dire, poteva avere delle colpe, potevamo imputare a lui. In realtà, un peccato di presunzione. In realtà Mihajlovic ha fatto quei cambi e un secondo dopo, su un rilancio, Higuain ha fatto quello che fa la terza punta al mondo, cioè metterla in porta quando era ancora in area. Certo, io penso che Mihajlovic, io non so se avete visto la conferenza stampa prima della partita, Mihajlovic sta dando non solo un cuore alla squadra, ma anche un'identità di gioco che gli vale solamente dei plausi, io credo. Sinceramente da Juventino. Sono d'accordo con te. Io non sento qua, bisogna dire che la gente del popolo è sempre con me. L'ultimo arrivato, questo ascoltatore, ho portato anche Larutino, ho portato il Drughiere, Mascialaio. Si chiama Andrea, un tifoso della Juve, ha fatto i complimenti. Beh, c'è anche chi ha scritto 349-238-6666 che gol di Higuain non vengono da schemi ma dal puro caso. Non lo so. Abbiamo tempo per parlarne dopo il GR. Grazie Andrea. Arriva anche più Luigi Pardo, 800 24 00 24. Torniamo subito. Tutti convocati. Io gliela faccio più, ragazzi. Mi fate fumare una sigaretta. Dai, mezza sigaretta. Il segnale orario vi è offerto da Waferlago. Waferlago, dolci emozioni italiane. I derby sono derby. È un derby molto pericoloso. Convocati. Ci strottano, visto se ne è parlato tantissimo in questi giorni, come ha gestito questa situazione, se va via tutto dalla testa. Già andato via tutto. Noi per quanto riguarda i derby abbiamo già dato nel 2016, andiamo a rifarla nel 2017, insomma. Ti senti in una squadra che in qualche modo una potenza del calcio? Sì, lo sentivo quando è stato squalificato, il giorno dopo meno no. Questo dico, quindi no. A parte gli scherzi, non posso sindacare questi, avrei accettato la squalifica così come accetto il verdetto. Insomma, ci sono persone preposte a questo e non possiamo sindacare su tutti. Io non ho la cultura del sospetto, in Italia è molto frequente. Per me è indifferente, non sto a sindacare cosa è stato deciso. Se è stato deciso ne prendo atto e mi fermo qua. Noi avevamo presso una critica non dal punto di vista giuridico ma sulle esternazioni del direttore generale Baldissoni, poi la cosa l'abbiamo chiarita anche tra di noi, che il fatto che sia stato riabilitato tutto sommato da tifoso di calcio ci fa anche piacere, avremo una motivazione in più per cercare di vincere. Oh, la grande pace, dopo la settimana dei veleni, via tutto dalla testa, via la squalifica, via tutto dalla testa. Pierluigi Pardo, ciao. Ciao Pier. Come va? Bene, bene, benissimo, insomma abbiamo raccontato per un'ora questo derby di Torino a tratti entusiasmante, poi vinto dalla Juve, dimmi bella, anche tu, bella partita, peccato di bella presunzione partita di Mihajlovic, o è bello così e poi insomma uno ha Higuain e vince e l'altro no? Beh, tutte e due le cose, tutte e due le cose. No, una ce ne devi dire una, però se sono tutte e due che scegli? No, scelgo Higuain. Alla fine è chiaro che la differenza di qualità fra le due squadre c'è, però detto questo, secondo me Mihajlovic lì quel triplo cambio forse poteva, consentendogli, poi è chiaro, avesse vinto la partita, dicevamo genialata di Mihajlovic, insomma è ovvio, però il gol nasce proprio negli istanti immediatamente successivi, forse c'era un po' di confusione, era pure vero che non aveva fatto cambi fino a quel momento, insomma la partita secondo me Mihajlovic l'aveva preparata bene. Sicuramente il Toro nel secondo tempo ha avuto delle occasioni, la Juve era comunque più squadra, secondo me anche nel primo tempo l'aveva dimostrato. È un derby, la classica partita che poteva prendere tutte le direzioni, e ha preso quella della squadra più forte, che l'ha vinta, sì, grazie ai suoi campioni. Questa però, è la vinta, però dai, alla fine Mihajlovic, che rischia anche qualcosa per ripeto quanto ho detto prima, per regalare, data la classifica, un sogno ai tifosi granata, io non mi sento di condannarlo. Beh sì, però non è che, voglio dire, cioè le occasioni, anzi dopo il cambio, dopo il 2-1 il Torino non le ha avute più. No, il triplo cambio, la differenza è che da una parte Allegri può far entrare Pjanic e Dybala, dall'altra, con tutto il rispetto, fa entrare Martinez, insomma questa è la... Da una parte c'è la Juventus e dall'altra il Torino, Pierluigi. Sì, appunto, sì. Quindi... E le differenze si vedono, soprattutto quando si allunga la partita, comprese le panchine. Poi capiremo chi è l'anti-Juve. Allora, io voglio ricordare i numeri 800 24 00 24 oppure 349 238 6666 SMS WhatsApp. Voglio anche dire che una cosa bellissima che è successa oggi, c'è questa foto di, non so se l'hai vista, Pier, di Bonucci, pubblicata su Instagram e su Twitter. Bonucci, che è infortunato, è a casa a vedere il derby con i due figli, uno con la maglia della Juve e uno con la maglia del Toro. Vabbè, ma questo è straordinario. Questo è positivo, insomma, no? Meno straordinario quello che è stato scritto sotto, perché qualche deficiente, insomma, quelli lì ci sono sempre, non è che li puoi levare. Il mondo è pieno di deficienti, e comunque i deficienti sono soprattutto quelli da tastiera, cioè, tante volte lo sappiamo anche noi banalmente, vediamo che ci arrivano dei messaggi terrificanti, ci fosse uno che ci chiama per insultarci, anzi, esatto, vabbè, non è un invito, no? Però no, è un invito invece. Vediamo, 8-0-0-24-0-24. No, è un invito perché il dialogo è sempre positivo, anche se uno la pensa in maniera diversa da te, anzi, è più interessante, no? Il dialogo, però, di battito. In assoluto, io credo che davvero ci sia una differenza, no? Fra quando uno si può nascondere dietro una tastiera e quando invece non c'è questo tipo di situazione. Quindi l'immagine di Bonucci è bellissima, ma insomma è chiaro che Torino è una città che vive di grande calcio, che vive di due grandi squadre, sono molto diverse, perché una è razza padrona, l'altra invece ha fatto della propria, anche delle proprie sfighe, delle proprie tragedie, però una cifra enorme dal punto di vista proprio letterario, di passione dei tifosi, e oggi è finita, quasi sempre finisce in quel modo lì, e qualche volta ci sono eccezioni, oggi è finita come nella maggioranza delle volte. Simone da Verona, 800 24 00 24. Simone. Sì, buonasera a voi. La mia opinione è che la vera anti-Juve è il Milan, per il semplice fatto che il gioco di Sarri dipende troppo dalla punta centrale, quindi si è visto dopo l'assenza di Milic una difficoltà. La Roma non è una squadra continua, e per continua intendo una squadra che per lottare al vertice deve fare come faceva l'anno scorso il Napoli, cioè vincere 6-7 partite di fila. Il Milan quest'anno ha vinto tutta una serie di partite che io ho sentito dire di culo, può anche essere di culo, io alleno nei dilettanti. Quando uno vince 2-3-4 partite e sono definite di culo, vuol dire che ha della sostanza sotto. Sì, però Milan poi lo vediamo. La sostanza sotto, secondo me, il difetto che ha il Milan è la panchina corta. Sì, però Simone, però bisogna mettersi d'accordo, anche la qualità, panchina corta, la qualità, che poi è un po' la stessa cosa. Lo vediamo domani sera a Roma. Però bisogna mettersi d'accordo, perché un anno fa di questi tempi si faceva il mazzo a Mancini, no, Pier, per il modo in cui l'Inter vinceva ed era prima in classifica. Secondo me non è fortuna solo quella del Milan, però che stia facendo più di quello che può. C'è una differenza sostanziale. L'Inter, si faceva il mazzo all'Inter in chiave scudetto, perché l'Inter era in testa alla classifica. quindi adesso poi parlo di me, non parlo degli altri, io in quel momento lì dicevo che non mi sembrava un tipo di andatura da squadra che potesse essere poi da scudetto. Se oggi ci fosse il Milan, mettiamo che la Juve avesse avuto la partenza dello scorso anno, quindi se ci fosse il Milan in testa alla classifica, ti direi le stesse identiche cose, cioè che il Milan non mi sembra alla lunga la squadra da scudetto. Però invece secondo me, se l'obiettivo è fare una buona stagione, il Milan è sulla strada giusta, e in qualche modo lo era anche l'Inter, che poi invece nella seconda parte della stagione si è impantanata in una quantità si tratta di intendersi sugli obiettivi, perché esattamente un anno fa in casa Inter si parlava di scudetto. Però sono d'accordo sullo scudetto. Al Milan nessuno parla di scudetto, perché le situazioni fortunate, quando cominciano a essere 4-5 fortunate tra virgolette, vuol dire che non è solo fortuna, quindi sono perfettamente d'accordo con lui. Il Milan ha dimostrato in tante situazioni quest'anno di sapersela cavare in delle situazioni complicate, anche di saper soffrire, anche di sapersi fare piccolo e provinciale, per poi portare a casa il risultato, ed è la caratteristica delle grandi squadre, insomma. La Juve da questo punto di vista è proprio l'esempio, anche oggi ci sono stati dei momenti che ha sofferto, però poi alla fine. Sì, però se tu sei un giocatore della Juventus, hai una tale qualità e hai la consapevolezza di avere una tale gamma di soluzioni, una tale quantità di campioni, che cioè io, se sono un giocatore della Juventus, vado in campo e dico: ma tanto prima o poi la risolviamo, almeno quando giochi sul fronte italiano. Sì, ma questo senz'altro, questo non ci sono dubbi, no, ma sono due sport diversi. La Juve per me è padrona del suo destino, e se non si incarta in cose strane, esatto, va tranquillamente a vincere il campionato. Però io credo che il Milan possa costruire una stagione importante. Poi sul fatto che possa arrivare fra le prime tre, sai, da quando abbiamo tre posti in Champions è diventata dura, perché tre posti non sono quattro banalmente, no. Quindi secondo me il Milan rischia di non arrivare fra le prime tre, ma semplicemente perché secondo me Roma e Napoli hanno più qualità. Però già il fatto che ci sia questa possibilità, e in questo momento il Milan sia in quella posizione di classifica, la dice lunga sul lavoro di Montella, e ripeto, non è casuale. Poi l'episodio della singola partita ci può stare, ma quando cominciano a essere tanti, i meriti ci sono. Certamente. Abbiamo il traffico prima, però vogliamo chiudere anche noi in maniera assolutamente pacata e contenuta. Insomma, la settimana dei veleni, quella di Strootman, del derby, l'avete sentite, anche le parole di Montella, di Spalletti, di Marotta. Oh, carissimo Pier, noi prima del traffico abbiamo qui, tu lo conosci, grande tifoso della Roma, senatore Gasparri. Un cordiale saluto a tutti. Che ci regalerà una cosa fatta apposta, giusto? Allora, sì, esattamente, perché dopo l'ode alle consultazioni, quest'oggi io vi propongo un altro capolavoro poetico. Si chiama Ode a Strootman, sì, e invito anche Pierluigi Pardo ad sentirla, ascoltarla con particolare attenzione. Sì. Allora, Ode a Strootman. Oh Kevin, fino a ieri eri squalificato, ma poi giustizia ha trionfato. La sete è un problema grosso, a Cataldi gli ha gettato acqua addosso. Sì, meglio acqua che un bel razzo a Laziale. traffico. Ma non è una... Tutti convocati. Tra poco, nuove notizie. Pigia il coso rosso, grazie. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta... Tutti convocati. In che misura la partita di domani può essere decisiva per laureare l'anti-Juve? Noi vogliamo essere la squadra che ha vinto contro il Milan, non l'anti-Juve. La Juve ci si gioca dopo. Pesa la solitudine dei numeri primi, ma la rabbia dei secondi anche peggio. Ma intanto è una partita all'alta classifica, è tutto abbastanza chiaro, questo è oggettivo. Buongiorno a te. Con la rabbia dei secondi. Ma sinceramente sono tanti calciatori che avrei tolto alla Roma. Strootman è uno di questi, De Rossi è uno di questi, Nangolan è uno di questi, Perotti è uno di questi, Manolas, ma poi se dovessi proprio scegliere una persona, toglierei Spalletti. Chiedo a lei quindi, quale elemento vorrebbe togliere al Milan? Il Montella, perché Roma è casa sua, l'Olimpico è casa sua, poi lui ci ritornerà da allenatore. La Roma è una squadra forte, è stata costruita per lo scudetto, per quantomeno per essere competitiva per lo scudetto, quindi è calciatore di assoluto valore. È vero che la Roma è stata costruita per vincere, mentre il Milan non è stato costruito per vincere. Per cui il fatto che il Milan sia insieme alla Roma evidenzia quello che è il vero valore degli allenatori. Buongiorno a te, a te. Hai sentito Pier cosa ha detto Spalletti? Che Montella tornerà all'Olimpico da allenatore. Paci e abbracci. Eh? No, ha detto che l'Olimpico è casa sua. No, ha detto ho sentito male io. Ha detto tornerà da allenatore. Un giorno, vabbè, dai, certo, quello, ma sai che Spalletti è un fenomeno dal punto di vista dialettico, e ogni tanto gli piace giocare un po'. Ma sì, è una cosa che ci sta, nel senso che Montella comunque è rimasto in buoni rapporti con la Roma, con i tifosi della Roma, quindi è un'ipotesi tutt'altro che peregrina, ma mi sembra una mutata, non credo che ci sia notizia, non penso che... No, non c'è notizia, però insomma, in questo clima di miele... Che ha sempre detto Ancelotti, un sacco di carezze, baci e abbracci, poi escono a mangiare insieme, eccetera, eccetera. Fin troppo zucchero, sì, in questa vigilia. Ancelotti 10 anni che dice che un giorno allenerà la Roma. Di più di 10 anni. E al momento la cosa non si è ancora realizzata, poi chissà. Senti, ma davvero Roma-Milan è la sfida che ci può regalare il nome dell'anti-Juve? O stiamo sognando? No, beh, stiamo sognando. Che ci possa essere l'anti-Juve almeno di scuola è normale. Se non vogliamo dire dell'anti-Juve, diciamo della seconda in classifica. No, ma stiamo sognando nel senso di pensare che questa possa essere... Cioè, probabilmente l'anti-Juve è la Roma, forse poteva esserlo il Napoli se non avesse avuto quel passaggio a vuoto. Può ancora essere il Napoli, può ancora essere il Napoli. Il Napoli continua a pensare che insomma, si sia buttato via... in quel periodo in cui non ha avuto Milik, buttando una serie di punti, un po' di appannamento dal punto di vista fisico e secondo me qualche errore anche da parte di Sarri, peraltro bravissimo, insomma. Adesso la squadra si sta ritrovando dal punto di vista offensivo in maniera abbastanza importante, perché corre di più, che comunque sia si è tolta di dosso la grande paura della Champions League. Per me il Napoli è forte. Io all'inizio dell'anno non è che le griglie me le ricordo, anche quando non sono esattamente... A proposito, scusate, sto facendo... apro una parentesi. La scommessa della schedina, sapete come siamo messi ad oggi? No, dopo facciamo il controllo. Siamo a 6 su 7. Amico mio, mancano 3 partite. Ma di che stiamo a parlare? Fammi festeggiare. Puoi anche fermarti a 6 su 10, Mazza, che porta sfiga. Che l'Inter non batta il Genoa, che la Fiorentina non pareggi col Sassuolo e che la Roma non batta il Milan. No, oggi siamo a 6 su 7. Ad oggi siamo a 6 su 7. Ma hai capito? Quando va bene, viene qui, tiene il conto. Conto lo teniamo sempre. E quando va male faccio 5. Sì. Ha fatto 8, 7, 5. Ma non lo so. Bisognerebbe andare a riprendere anche le settimane dei 2, dei 3, magari. No. Non facciamo gli split. Tornando al discorso di prima, il Napoli per me era la seconda forza del campionato e secondo me sono Napoli e Roma, sono lì. Il Milan è dietro, secondo me con la Lazio sono la quarta e la quinta, e ovviamente in questo gruppo secondo me c'era anche l'Inter, doveva esserci anche l'Inter, che è la grande delusione fin qui. Però insomma le situazioni e gli equilibri sono quelli. Poi perché il Milan fa bene a crederci, poi bisogna anche capire se farà mercato a gennaio, perché pure questo è un tema, no? Sì, però hai notato come la classifica si stia normalizzando, dicevo prima, se la Roma domani batte il Milan, insomma, Juventus, Roma, il Napoli che oggi ha stravinto a Cagliari, cioè, rimane la Lazio, è chiaro che... Sì, non... l'Atalanta si sta sgonfiando... Si va un po' normalizzando comunque la classifica. Assolutamente. Il Crotone dimostra di stare meglio di Pescara e Palermo, insomma, anche dietro ci sono delle piccole cose che succedono. E dietro ad oggi la proiezione della salvezza è 22 punti. 22 punti. Discreto. 800-24-00-24, oggi domenica di numeri. Massimiliano e Marco, dai, Massimiliano, provincia di Venezia. Buonasera. Provincia dove di Venezia? Esattamente Chioggia. Chioggia. Anche se non sono di Chioggia, però abito a Chioggia da tanti anni ormai. Conta dove si abita. Senta, quello che volevo domandare io è perché nella corsa all'anti-Juve non si menziona mai la Lazio. Infatti prima sentivo Pardo che Inter, Milan, Napoli, Roma e no, Pardo ha messo per la cronaca, io non voglio dire, ma Pardo ha messo la Lazio insieme al Milan, La Lazio l'ha messo in Milan. Forse per una questione di classifica, perché c'era la classifica davanti. No, perché, per una questione di no, no, la Lazio, non facciamo, la Lazio a me piace, ottimisti, dai. A me piace molto, dai. Nel senso che la Lazio, beh, ci sono testimoni, c'è il signor Marco Tulli che è un valente redattore di Radio 24, in questa conversazione che abbiamo avuto quest'estate, sul fatto che la Lazio secondo me alla fine nella sua normalità del non andare a prendere un fenomeno, perché Bielsa è un allenatore sicuramente guru, sicuramente iconico, molto mediatico, sarebbe stato un valore aggiunto per il nostro calcio, però ha puntato su un allenatore che aveva già dimostrato lo scorso anno di poter far bene, e la Lazio ha una buona squadra, ha qualche carenza a livello secondo me di seconde linee. In qualche modo i due derby che ho raccontato, che ho avuto modo di raccontare questa settimana e quella scorsa, si assomigliano, nel senso che ha vinto la squadra che aveva più soluzioni dalla panchina, e l'ha vinta nel secondo tempo, guarda caso, no? E la Lazio ha un po' lo stesso tipo di problema che ha il Torino, ma è più forte del Torino. La Lazio per me è in quel gruppo lì, è nel gruppo di Milan e Inter, alle spalle di Juve, Napoli e Roma, e poi ha questo grande vantaggio secondo me del non avere grande pressione addosso, no? Cioè una squadra delle prime sei non ha grande pressione addosso, nessuno va a vederla, sì, è una mancanza di pressione abbastanza strana. Cioè, se tu mi dici l'Atalanta non ha pressione addosso, è un conto. La Lazio non ha pressione addosso perché ci sono mille problemi ambientali, no, che conosciamo bene. Ma adesso il pubblico è tornato, insomma, anche da quel punto di vista la situazione si è normalizzata. La Lazio per me è un'ottima realtà ed è una squadra che può, secondo me, serenamente prendersi un posto in Europa League, serenamente, e se si dovessero creare delle condizioni potrebbe ripetere l'impresa dell'anno di Pioli, quando poi sfiorò il secondo posto, arrivò terzo, la sappiamo in volata, insomma. Però cioè, l'anno di Pioli il secondo, terzo posto è andato via a 70 e 69 punti. Certo. Quest'anno siamo lontanissimi, credo, da quel tipo di proiezione, siamo abbondantemente oltre quota 70, credo che la Lazio, insomma, se il ragionamento è quello... La Lazio c'è a 31, Sì, la prospettiva sia quella del posto di Europa League, che non è poco, viste le premesse. Aspetta che c'è ancora Marco da Roma. Marco? Buonasera e grazie per la convocazione. Buonasera. Eccoci. Allora, io anche sono un tifoso della Lazio, chiamo, diciamo, dalla provincia Ardea. Volevo fare una domanda sulla Lazio e quello che pensavate, e poi una provocazione. Sulla Lazio volevo capire, io ritengo che Pardo già mi ha anticipato sul fatto delle seconde linee, cioè se qualcuno starnutisce poi dopo in realtà la Lazio ha un problema, però la trovo molto meglio di tante altre squadre a parte Juve e Milan, l'altra squadra della capitale neanche la calcolo. Quello che invece, ecco, volevo sapere il vostro pensiero. E poi la provocazione, visto che insomma si è parlato tanto di razzismo, no? Io lo intendo più come classismo. Signor Pardo, dottor Pardo, che dice di convocare magari qualche signorina grassa, 100 kg in trasmissione invece che cosce lunghe? Anche questo potrebbe essere una forma di razzismo, sì, o di classismo. Qualche signorina diversamente ma esattamente come quando le conduttrici dei TG di Sky e Media, dei TG, saranno tutte di 100 kg. Cioè l'elemento estetico in televisione è un elemento che vale per tutti, vale anche per gli uomini, nel senso che la presenza scenica televisiva è una presenza che vale per tutti. Non a caso, insomma, i conduttori dei giornali sono tutti bellocci, maschi e femmine, poi sono anche molto bravi. Io ne ho tanti colleghi sia di Mediaset che di Sky che sono sicuramente bravi, ma questo elemento estetico c'è. Io francamente non ci trovo nulla di male nell'avere Melissa in trasmissione, che anzi è anche una che comunque il calcio lo mastica, o avere delle altre donne, poi in realtà sono due puntate. Non lo trovo un elemento sbagliato, non mi sembra la forma né di classismo né di razzismo, ecco, da questo punto di vista. detto questo, poi abbiamo risposto, potrei dire chiedere quello che vuole, che... noi rispondiamo. No, scusa Giovanni, sì, potrei dirti che quello da 100 kg già c'è. Ma difatti io non ho voluto inferire quando tu hai detto i conduttori televisivi sono belloci, ma vabbè. Sì, quelli della radio sicuro, quelli dei telegiornali sono tutti, beh, insomma, fateci caso, nelle trasmissioni, c'è, sì, non sì, c'è niente di male, succede anche all'estero, succede anche in paesi che hanno Pierluigi, mi sembra che abbiamo fatto quasi un po' troppo lunga questa storia qui. No, secondo me perché questo non è giusto. Non è giusto. Bisogna portare tutta la persona, come io ho portato anche nella conferenza dopo. Vedi, è giusto. Gli ultimi arrivati, come Pierluigi Pardo, no, come Masciavaio, come panettiere, spazzacamino, gomista. Così è giusto portare in trasmissione Donna Cicciona. Ma non bisogna assolutamente fare queste cose. Sì, non si possono dire queste cose. Vabbè. Sai che già ti hanno detto, detto che le donne non capiscono di calcio, non possono parlare. Sì, ma in questo caso io voglio portare popolo di Torino, anche donne che sono un magro, panettiere, ultimo arrivato, Cicciona, non ha importanza. Devono essere tutti tifosi del Toro. Questo è importante. Questo è un bel messaggio. Adesso ci dobbiamo fermare. Saluto Carlo, che ritrovate ragazzi domani dopo il genere delle 14. Pier resta con noi. Può venire anche Carlo se vuole. Puoi venire anche tu a fare conferenze con me, non aggraviamo la situazione. Andiamo, torniamo subito. Tutti convocati. Non si fa fatica, ragazzi. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10:30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10:30. Tutti convocati. In riferimento a Gabigol, non pensa anche lei che sia meglio concedere al giocatore più spazio magari a una squadra più piccola? Io credo che sia una domanda lecita, ma in questo momento non mi va di parlare di mercato, perché devo assolutamente rimanere concentrato sul presente. Il presente ci vede impegnati, ripeto, in tre partite molto importanti per il nostro futuro in questo momento. Poi ripeto, io e il club faremo le valutazioni necessarie per cercare di migliorare la squadra e per cercare di fare le scelte migliori anche per i nostri singoli giocatori. Siamo anche alle prese col mistero Gabigol, darlo in prestito, non darlo in prestito, farlo giocare, cederlo. Carissimo Pier, abbiamo convocato uno che ad agosto aveva detto Gabigol è il futuro del Brasile, chi lo prende fa un affare. Insomma, aveva detto questo è un giocatore importante. Lo ringrazio e lo saluto intanto, José Altafini. Ciao José. Ciao, sono stato convocato? Sei stato convocato perché sei forse l'unico in grado di darci notizie di Gabigol, se l'hai visto. Buonasera a tutti amici di Gabigol, vuole sapere? Sì. Guarda, io faccio un esempio di quello che è stato il mio arrivo in Italia, no? Non è un esempio per gli altri, ma è un esempio per me stesso. Io quando sono arrivato in Italia avevo vinto il mondiale del 58 in Svezia, insieme a Pelé e tutti gli altri. E quando sono arrivato in Italia non sono arrivato da campione del mondo, sono arrivato da un principiante che dovevo imparare. Io dovevo giocare con Lido, con Schiaffino, con Maldini, con tanti altri giocatori della nazionale italiana. Io sono arrivato con la più grossa modestia che mi avevano insegnato, no? Sono arrivato dicendo che dovevo imparare, infatti mi hanno insegnato molto Schiaffino, Lido e tanti altri giocatori, no? Però ci sono dei giocatori che quando arrivano pensano di essere al massimo, pensano di essere già arrivati, pensano di essere grandi. Io ho un esempio di Neymar, quando Neymar è andato a Barcellona. Lui ha fatto una cosa bellissima, non so se è indicato da chi o da sua intelligenza. Lui è andato lì, non ha fatto gara con Messi per essere migliore, lui ha abbracciato Messi, sono stati insieme e oggi fanno una coppia bellissima, si vogliono bene tutti e due, non c'è invidia, non c'è gelosia. Allora, ci sono dei giocatori poi che purtroppo arrivano, pensano di essere già essere il campione del mondo. Ma quindi ci stai dicendo che Gabigol è entrato con la testa un po' così, cioè un secondo po' me sì, perché io ho visto arrivare e sembrava il campione del mondo. Ma colpa sua o di chi ad esempio gli ha fatto la presentazione in un teatro, l'ha paragonato a Ronaldo? Sì, infatti è colpa di tutti, ma se il ragazzo fosse stato anche furbo, anche se gli altri facevano tutte queste cose, lui li scioglieva tutti, diceva no, guarda, io sono qui per imparare, sono qui, sono appena iniziato, sono stato convocato nazionale, eccetera eccetera. La stessa cosa che non sta succedendo con Jesus Gabriel, è un ragazzo modestissimo, simpatico, seguito molto bene dalla mamma, e chiaramente avrà successo nel Manchester City. Per cui io dico, bisogna vedere le caratteri della persona e l'approccio che ha con la società. È arrivato qui e sembrava il campione del mondo. Io non so se questa è la causa di tutto quello. A me, da lì, dal fuori, dall'esterno, mi dà l'impressione che il ragazzo sia un po' montato la testa. Si è un po' montato la testa. Non so se voi siete d'accordo con me. Non lo so, Pier, sei d'accordo? No, io sono d'accordissimo con Giuseppe, a parte sono d'accordo a prescindere con Giuseppe, ma credo che, a parte le battute, che quando si compra un giocatore si compra prima di tutto un uomo, e questo è un aspetto che alcune società magari viene stressato in maniera particolare, viene sottolineato in maniera particolare, è molto importante, perché compri certamente delle qualità tecniche, ma compri anche la persona, quindi ti devi in qualche modo informare. È chiaro che poi qui siamo di fronte a un ragazzo molto giovane, e quindi ci sono tutti i margini per poter sbagliare e per poter recuperare. Io credo che dal punto di vista tecnico la scelta di Gabigol insomma sia stata un po'... Io non discuto il giocatore, io l'ho visto giocare una volta sola, mi sembrava un giocatore, dico, finalmente il Brasile ha due o tre giocatori in attacco, perché quando io penso a Urk mi viene l'urticaria, no? Che giocava in nazionale brasiliana. Io ho visto questi tre giocatori, Jesus Gabriel, Neymar e lo stesso Gabigol insieme. Io dico, finalmente qui, veramente il Brasile sta un po' percorrendo la stessa strada dell'Argentina con i 10 attaccanti che hanno loro. Però io devo dire, il ragazzo è vero che bisogna guardare prima i caratteri, eccetera. Nessuno ha guardato il carattere di Adriano. Adriano è arrivato qui, ha cominciato a fare casino che non finiva più. Cioè, dipende anche dall'intelligenza del giocatore o chi li segue, capito? Ma quindi come se ne esce, perdonami José, cioè, ha ragione la gente ad esempio che dice no, il prestito no, perché comunque per un giocatore significa andare in un posto dove non sei pienamente valorizzato, ha ragione chi non lo fa giocare, insomma, come se ne esce? Ma io non lo so, io guarda, prima di tutto devo capire, io non seguo quelli che seguono gli allenamenti, vedere che carattere ha, che grinta che ha, che voglia ha. Io non lo so, perché purtroppo non seguiamo gli allenamenti dell'Inter. Però questo qui bisogna che o qualcuno che gli sta dietro, che gli insegni un po' l'umiltà, non so se lui è umile o no, che gli insegni l'umiltà e ha voglia di esplodere, capisci? Questo qui, se tu lo impresti, può darsi che sia un bene per la società, perché se questo qui nell'Inter non riesce a giocare neanche le amichevoli, cosa vuoi che dica? Che evidentemente nell'Inter non può stare, non in questo momento. Grazie José. Ok. Ciao. Grazie José Altafini. Hai capito Andrea Sorrentino, inviato di Repubblica? Ciao sì. Andrea. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Abbiamo chiamato, noi continuiamo a cercarlo. Come stai? Bene, grazie, bene. Spero anche tu e anche voi. Sì, noi stiamo benissimo. Poi noi siamo al caldo, questa sera a San Siro immagino invece ci sia... Serata da calzamaglia questa. Serata da calzamaglia. Senti un po', che Inter dobbiamo aspettarci? Davvero la difesa 3? Storicamente sì. I tifosi dell'Inter sono allergici alla difesa 3. Sì, ma si immunizzino, perché credo che sia una delle poche cose ormai rimaste da fare, perché poi sappiamo che la difesa 3 quasi sempre, dipende poi dagli esterni, ma insomma quasi sempre diventa una difesa 5 in fase di non possesso palla, anche se stasera potrebbe esserci Biabani a destra che è molto offensivo, però è un tentativo che fa Pioli di risolvere il problema principale dell'Inter, che è quello di prendere una caterva di gol, che poi il problema che l'ha portata a essere in questo momento undicesima in classifica, mentre un anno fa di questi tempi era prima, come ricordiamo tutti. È una squadra che deve imparare a difendersi di squadra innanzitutto, e quindi la difesa a 3 o a 5 è un tentativo di coprirsi un po' di più, ecco, mantenendo una certa così una certa pericolosità offensiva, mantenendo Candreva, Icardi e Perisic davanti, ecco. Ma quindi io la butto lì, scusate Pier, allora non aveva tutti i torti, cioè non era pazzo De Boer? Vabbè. No. De Boer lo fece la prima giornata un po' sorpresa col Chievo e andò male, però ecco, magari ci aveva visto giusto. Beh, io oggi ho evocato a proposito di De Boer il famoso triplo cambio col Pescara, perché oggi Mihajlovic ha fatto il triplo cambio in Torino-Juve. Il triplo cambio è un'altra cosa molto naif che De Boer fece a Pescara e funzionò in quella circostanza. Ma guarda, in generale mi pare chiaro che sono passate 5 partite, però mi sembra evidente che la colpa non fosse tutta di De Boer. Questo credo sia non in discussione, perché è arrivato Pioli, ma fino a questo momento non ha sistemato le cose. Sì, bravo. De Boer ha messo del suo, De Boer ci ha messo del suo. Questo non c'è molto da discutere, cioè De Boer è stato ampiamente al di sotto delle aspettative e delle speranze. No. No, io voglio sempre vincere, sì, ce l'abbiamo con la mia filosofia di gioco. Sempre voi giocatore pro, yeah. vincere, sì, difesa a 3. Hai visto, sì. Difesa a 3. No. Però non mi avete ancora spiegato se è una strategia lucida. Lo ia fa riderissimo, sì. Lo ia fa riderissimo, giocatore, yeah. Mi manca, a me manca un po', manca. Non lo nascondo, a me ha fatto... Anche ad Andrea Sorrentino manca, no, ricordo. Sì, ma a me faceva anche un po' pena De Boer, non mi era antipatico e non penso che fosse un incapace, ma non era pronto per questa realtà semplicemente, anzi, certo. Ma la colpa è sempre stata di chi l'ha buttato in questa arena, chi l'ha preso senza difenderlo, buttandolo in questa arena. E poi sono le stesse persone che non hanno ancora organizzato l'Inter come un club di Serie A, è un club che non ha dirigenti operativi nell'area tecnica, tranne Ausilio. E che ha. Beh, c'è anche quell'altro, c'è anche quell'altro dirigente operativo nell'area tecnica, quello cui chiamano i procuratori per chiedere perché non giocano i giocatori. Com'è che si chiama? Aspetta, chi ha? Chi vuoi dire? Chi è? Sì, vabbè, però quello non è ufficialmente un dirigente dell'area tecnica, è un consulente esterno. Sì, è una macchina. E tra l'altro, insomma, è un po' in disgrazia ultimamente, non so se ci fate caso, ma João Mario aveva perso la titolarità nell'Inter. Gabigol non gioca mai e sono stati due colpi di mercato principali di Chia, quindi magari chissà, dopo i primi mesi di stagione anche la stella di Chia potrebbe essere un po' oscurata, ma questo è un po' presto per dirlo. Di sicuro l'Inter di Pioli è rimasta altalenante, benino nel derby, malissimo in Israele col Beersheba, ottima con la Fiorentina per un tempo e poi disastrosa a Napoli in avvio e poi discreta, insomma. Quindi stasera cosa dobbiamo aspettarci su queste montagne russe? Io vedo una partita molto equilibrata, perché il Genoa è una squadra che potrà dare moltissimo fastidio all'Inter se avrà voglia di dargliene, e quindi è un Inter che deve stare molto attenta, soprattutto perché inaugura un nuovo sistema difensivo che ha delle insidie al suo interno, sia perché è un modulo che l'Inter non ha ancora mai sperimentato davvero in campionato, tranne la famosa prima giornata di De Boer, sia perché questo Biabiani sulla fascia destra potrebbe essere un po' rischioso in fase di copertura. Però siamo ancora agli esperimenti, siamo all'11 dicembre e questo dice tutto. C'è un amico che ha scritto Inter Genoa 0-3 e lo sapete anche voi, lo sa forse Pier, che ha messo... No, Pier ha messo il re della schedina, il re della schedina. No, io in realtà mi ricordo che stavo al momento a 6 su 7, ho sbagliato solo l'altro. Ce l'hai già detto, sì, scusa, però volevo ricordarvi che sto a 6 su 7, su Inter Genoa ho detto 1, quindi mi aspetto la vittoria dell'Inter, anche se ovviamente non è facile, ma l'Inter è una squadra matta veramente in questo periodo, non solo la definizione storica, ma è veramente una squadra con degli sbalzi d'umore, come direbbe Battiato, clamorosi, enormi. Non è, da questo punto di vista non è ancora una squadra matura. Ma siamo curiosi stasera di vedere come la prende. Vi devo fermare perché c'è il traffico. Saluto Andrea Sorrentino, grazie Andrea. Sì. Ciao a voi, ciao. Non prendere troppo freddo. Questa sera San Siro, Kia non è una macchina, lo diciamo al nostro debut. Per gridare con giocatore che vuole vincere. Traffico. Tutti convocati. I love this game. Tutti convocati. Quando hai un problema vai da Diego Costa. C'è andato oggi Conte, ha vinto 1-0 con il West Bromwich Albion. Il Liverpool sta pareggiando a mezz'ora dalla fine in casa contro il West Ham. L'Arsenal ieri aveva vinto, il Manchester City era stato travolto dalla rinascita di Vardy e dell'Leicester. Insomma, Chelsea 37, Arsenal 34, Liverpool al momento 31, Manchester City 30, ha vinto anche Mourinho. Nicola Roggero, ciao. Buongiorno a te e agli ascoltatori. Oggi hai commentato il Chelsea, che non ha fatto una partita straordinaria, ma chi se ne frega, non la vittoria consecutiva. Sintesi proprio estrema. Esatto, mi sembra che hai sintetizzato bene la vicenda. Il Chelsea ha già giocato molto male, soprattutto non è mai riuscito a venire a capo del West Bromwich Albion, che al solito Tony Pulis, che è un grande allenatore, ha disposto in maniera tale da far giocare male gli avversari, per cui il Chelsea sostanzialmente non ha mai tirato in porta. Io ricordavo un unico tiro nel primo tempo di Kanté, la palla ha toccato involontariamente Pedro ed è finita fuori di un soffio. Al di là di questo, il Chelsea non aveva fatto sostanzialmente nulla. L'ha decisa Diego Costa con un borseggio degno di un artista della metropolitana su McCauley, che è stato molto ingenuo, di fatto l'unico errore commesso dalla difesa del West Bromwich Albion, e Diego Costa l'ha fatta pagare. Però sono partite del genere che spiegano quanto una squadra sia concentrata. Oggi è una partita dove una squadra normale, anche forte ma normale, esce con un punto e poi si rammarica dei due punti persi, non aver giocato bene. E invece il Chelsea è una squadra che sa essere anche molto umile, l'ha dimostrato anche Conte nel finale, quando non ha esitato a buttare dentro Ivanovic a difendere addirittura a 5, perché era prezioso quel 1-0, e fa il paio con l'1-0 di Middlesbrough, altra partita non entusiasmante del Chelsea, però intanto a fuori di partite magari anche non entusiasmanti, oltre ad altre invece riuscite benissimo. È chiaro che Chelsea può andare a vincere la Premier. Certo. Oh, Pier, sai quanti gol ha preso il Chelsea di Conte nelle ultime 9 partite, quelle vinte? Pochissimi. Meno di pochissimi. 2. Pochissimi non vale, però Pier, è troppo facile. È chiaro che ne ha presi pochi. Staccali bene. Pochissimi. Due era proprio pochi. No, ma noi glielo facciamo notare perché lui è mister 6 su 7 alla schedina, quindi il Chelsea l'avrei preso, non c'era grande difficoltà. A me sembra che al di là dei meriti di Conte, la seconda grande buona notizia per Conte è la fragilità di una serie di squadre, Manchester City su tutte, che potevano essere le vere favorite. Che il Chelsea potesse crescere rispetto all'anno scorso era il punto di partenza, che potesse crescere così bene come sta facendo è chiaramente un ulteriore elemento, ma il terzo elemento è che veramente non c'è in questo momento un'alternativa troppo credibile. Soprattutto se Guardiola non insegna ai suoi a difendere. Appunto, dico, l'Arsenal è una buona squadra, però secondo me fra Chelsea e Arsenal il Chelsea si lascia preferire, quindi il Chelsea rischia veramente di diventare la favorita del campionato e non più soltanto un outsider per meriti propri, ma anche perché si crea una situazione nella quale chi doveva essere favorito, lo United, vabbè, sappiamo che ha mollato molto presto, ma successivamente il City sta speccando pesantemente. Sì, no? Sì, ha qualche problema. Comincio a salutarti, grazie Piera, a domani. Ciao. A ciao, domani, Nick. Ciao, Piera. 30 secondi, poi un giorno Guardiola insegnerà ai suoi anche che esiste la fase difensiva, magari soprattutto contro gli allenatori italiani. Ma soprattutto Guardiola dovrà imparare che non esiste solo un tipo di calcio, bisogna adattarsi a fare un tipo di football a seconda degli uomini che si hanno a disposizione. Conte in questo senso ha preso il Chelsea, ha visto il materiale che va a disposizione e ha adattato la squadra secondo le caratteristiche dei propri giocatori. Guardiola invece gioca il calcio che giocava al Barcellona e poi al Bayern Monaco e adesso al Manchester City, ed è un calcio proponibile con certi interpreti, con altri no. Evidentemente una difesa dove ti manca Otamendi, purtroppo continua a mancarti Kompany, e temo che mancherà forse per sempre, perché è un giocatore che ormai ha una fragilità cronica, e gioca come difensori centrali Stones, Korov o in alternativa Stones, Sagna, è una squadra che assolutamente è troppo scoperta. Grazie Nicola, abbiamo il Ger, grazie Nicola Roggero. Noi ci fermiamo qui, io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Filippo Aureggi, Andrea Roccabella che si sono alternati in regia, grazie anche al nostro Andro Mercu, tutti convocati domani alle 14 e domenica dalle 17 alle 19. Ciao.